trattatore! Non mi casavo! Ehi! Ehi! E non c'è titolo! Devo sembrare vedi! Vito! Oh! Preparando qua! Eia! Ehi, mi baffarato, ragazzi! E va fatto fino adesso, adesso mi sono liberato un po', adesso sapere un po' se sento qualcuno. Che mani? Oh, yeah. Quelli là erano, sono la 075, Gio Marì. E se ti sentivo male, infatti mi sono spostato perché sentivo male a loro. E chi è che ho sentito male? Ma non li sei tu questi che stavano parlando? No. Ah, ma sì, mi arrivano, Boh. Non ho sentito nessuno io, non ho nessuno, solo a te e basta. Erano 75 erano. Ah! No, io ce l'ho. Ce l'ho la frequenza fissa io, lui. E anche io! Scusa, sì. Ma ci sono ancora? No, adesso no. No, l'ho acceso adesso io lui, proprio in questo momento che hai detto qualcosa tu, capito? No, non era acceso, capito? Noi stiamo preparando un attimo e poi rientriamo a casa. Siamo aperti qualcosa, troviamo qualche amico. E poi a domo, capito Giovanni? Cazzo, non credo bene. Anche noi siamo preparati, abbiamo finito adesso è tutto... C'è ancora... Mimmo ci vuole un paio d'ore a cucinare tutto. Ah, noi abbiamo cucinato i gamberi a pranzo e poi ci facciamo, un paio di pezzi di salsiccia, pezzi di formaggio, un paio di olive. Ah, giusto così, non è che dobbiamo abbuffarsi. Poi domani siamo in campagna. Ah, ecco. Già va bene ugualmente, dai. Allora so che siete soli. Andi, io non ve ne gana, ma anche Capodanno, noi abbiamo tutta la famiglia qua, capito? C'è tutta la famiglia qua, salotte, la trullallina. Ehi, vabbè, già andava bene, dai, tutti in famiglia. Già va bene, tutti uniti, poi tu c'hai tanti figli. Ma una volta all'anno viene il Natale, per cui bisogna anche approfittarne, senza esagerare, sempre ai dovuti modi giusti, e siamo tranquilli, dai. Esatto, parole sante. È quella cosa più importante, dai. Ok. No, io a Capolano dovevo uscire fuori, ma non ci sentiamo e per cui per salmare e fare salmare gli altri non ci andiamo, sino devo andare da mia sorella, capito? Però vuol dire che rimarremo qua a casa lo stesso, va bene ugualmente, dai. Quando non si può, non si può. Vabbè, interessante divertirsi, mangiare e stare in compagnia, poi del resto chi se ne frega. Ehi, la compagnia non ci mancano, c'è anche mio figlio e i miei nipoti, tutti gatti, si chiede, puoi immaginare, soli non siamo soli, per cui c'è gente, sia a salotte anche a Capodanno, capito? E per cui non ci sono problemi. La salute ci vuole, basta, boh. Ci manca chi, non bisogna di nà, non bisogna di nà. Per carità, purtroppo è così. E tua madre? Sola a salotte? No, mamma sì, come mio fratello. Poi domani è a pranzo dalla sorella di mia cognata. Tutti insieme sono, mio fratello con la ragazza, poi ci sono la figlia della sorella di mia cognata, i figli, dai. Poi non so chi c'è, comunque c'è un po' di gente. Va bene, quando uno sta bene bisogna approfittare, dai. Si diverta e senza esagerare e tutto va bene. Ok, bene. Allora si è presentato lì solo, ma con un'anima oggi, io è sempre acceso, è tutta la sera, tutta la mattina, però a lontano, ma se avrebbero chiamato gli avrei sentito. No, l'ho sentito un'anima. Io l'ho lasciato acceso, sentivo questi qua che stavano parlando, però erano spostati di un canale, forse sentivo di splash qua in zona vicino a me, forse sentiti. Infatti. No. Non li ho sentiti perché non era, mi ero allontanato io, capito? Mi ero allontanato, per cui no, magari poi era il volume basso, forse magari mi sono sforzato in cucina e quando stavano parlando non li sentivo, ecco. Adesso infatti ho sollevato il volume e ho sentito a te, però è sempre acceso, dalle 3:30 è sempre acceso qua. Però ogni tanto mi sposto a controllare e a fare, lo sai, dai. Vabbè, tu già lasci tutto acceso, già va bene, dai. Ehi, Marco Mario, volevo che vada dai segni andenti, dai, piano piano. Ehi, già passa, già, ehi, già passa pure, così che... Già vola il tempo, per cui... E Camilaburu, per carità, vabbè. Grazie a Rolaitesi, mi ha mandato un messaggio, gli auguri. Però io non le so mandare messaggi, che si che domani nel telefono direttamente. Fai bene Giovanni, sono se usare. Ma ho usato l'altra la bicicletta. No, basta la bicicletta, Ieri ce l'hanno portata via la bicicletta. Ah, l'hai venduta? Ieri ce l'hanno portata via, ieri sera. Ah, tramite Facebook? Peccato, allora. Così che... la voleva in domanda, non l'ha giurata, però dice, ma me l'ha data come te la giudice, l'ha giù tanto e tanto, ma dato e te l'ha giurata, dai. No. Numa, si chiama Numa per l'aggiurata. Io parlo della bicicletta però, No, quella che ti ho comprato l'ultima, la bicicletta, ho capito. Infatti, mi piace, sì, però... cosa le fai, se non le tratti, non le fai niente, ad assare chi mi lampada, capito? Sì che mi sono pensato e per l'aggiurata. Sì che... Infatti a Luca la gitto a Cavanina, va dal computer. Chi l'ha aggiurata, capito? Ah, te l'hai venduta tu allora, di coso tuo? Qualcuno che conosci? Infatti, gente che conoscevo, capito? Per cui l'ha aggiurata io direttamente, capito? Ma l'ha provata prima, l'è piaciuta, diceva la cannolata, io non credo la cannolata, catta. Era un bombo, abbia piazzato pure l'acceleratore. Fatta! Peccato che lo farei via lui. Ah, pure l'acceleratore l'avete piazzato, ecco. Vi l'ha piazzato, ma provala, dopo vi l'ha piazzato, no? Così che ha detto, vabbè, ve la passiamo. Se hai non interessa, se no, già la giornata la samaniglia pure. Se lo cava. Però ve l'ha giurassata chi l'ha giurata un bene, capito? Passi per regolare la velocità, capito? Vabbè, interessante, che ne è data, ma come se lo chissà, poi non la prendi tu, poi si arruineggia. Ma la batteria l'hai lasciata come la prima, cioè con la modifica, o gliela rimessa come la prima? No, come originale, come era prima, per la gibuccia. Non mi piaceva nemmeno a me, capito? Perché veniva male il bauletto a piazzarlo, capito? Allora l'ho messa direttamente a posto suo, l'ho piazzato il bauletto, l'ho data come è arrivata, capito? Ehi, andava già male, meglio così, dai, ma qui te ne hai bucato un peso. Infatti, non sapeva quello che girassi, così che... Non so che era una cosa magari più facile a circolare, capito? Però è cosa le fa via, dai, non è tratti lui, è chi dà ragione. Come te la vado già tratta all'altra, ma te si pare così, ma ti balla lei da me, mi posso, cacchi giretti, no, che magari a Dareggio non posso. Però asci fuori, non saranno. A giocare mi si bocca sotto qualche macchina. Ma adesso con la nuova legge, hanno detto che ci vuole l'assicurazione, amico, su queste biciclette. Lo so. Però quelli che superano i 250, però, Se è sopra 250 e non può circolare sulla strada, è a pitto. C'è 250, di che cosa? Di cilindrata? Capito. Se è superiore a 250 non può circolare sulle strade, mentre invece quella da 250 può circolare senza l'acceleratore, però, senza l'acceleratore. Ah, ho capito, ella. Vabbè, andava allora. Ero qui, vabbè. Oh, ma io invece di alzare i 4 mattinini, di piazza 2 e arrivare 2,50, hai capito? E poi si circola benissimo. Penso che magari mi metti qualcuno, l'assicurazione comunque ci vuole. Ehi, no, che casa, come fai? Si male, non andate forse l'assicurazione, allora fagli qualche giretto, qualche borsa, e sì, ma qualche borsa ai roghi. E c'è pure attento, no? Cazzo, non è che non è che fai pure, no? Io pure lo viscelo, ma fuori di sì, no? La borsa è andata io che ha detto i cuscini, ma la boio no, oh io no, saranno. Il piacciaferro, ecco, il piacciaferro, anche se lo uso il piacciaferro. Come il raggio, dai, cammina, vero, cammina più dell'altro. E cazzo, chi sa camminare più, già lo grida. Se la vuoi fare cambiare, se no va quel tanto e basta. Se è più pedale più cammina, no? Ho capito. Va, mi posso lavare, va bene un piano, va. Così, tanto già sono pronto. Eia. È così. Non sa faccia nessuno, a me pare che la gente... E sono tutti affamati e sono piccoli tendi, prima di mezzanotte. E non solo, di mezzo in buio. Ma un amico ha fatto di oltre che al circolo, cotte, poi ha fatto colpa di grani con le cipolle, e c'è un po' di roba, dai, c'è un po' di gente anche. E poi ha messo le bottiglie di fumata e tiro la bottiglia, e poi consumavi quanto volessi, mangiare le cose. E quale quel circolo che ho visto l'altra volta? Esatto, mi sono bevuto un bicchiere di birra e basta. Vabbè, che... ogni tanto bisogna anche scappare a chiacchierare, magari poi c'è da bere qualche bicchierino, se lo beve uno, cosa... chi può bere, io... a bere, ma può darci pure qualche bicchiere di vino che lo bevo a salotte, ma se lo bevo con la gazzosa, non ho più gazzosa che vino. E il vino che ho io è vino nostro e sappiamo che è normale, è buonissimo, però senza gazzosa non ti riesco a bere, lo capisco. Massimo un bicchiere, due, ecco, non di più perché non bevo io, capito? Non bevo nulla io, nemmeno Coca-Cola, alcol, niente, solo qualche bicchiere di vino così, ogni morto di pappa in compagnia. Sì, se no pagisco i bicchieri, guarda, fa carità, io bevo pochissimo lo stesso, ma due, tre sfumatini, non di più e poi ci ho finito, a parte che devo guidare dopo. E poi non c'è la patente, serve per possibilità la patente, pago per embriagarmi, ma non esiste proprio, non è più come una volta che ti lasciavano andare, adesso ti castagnano. Oh, se uno deve guidare assolutamente a bere, no. Oh, caro, quello lui bisogna evitarlo, bisogna evitarlo assolutamente, e lo credi. Mangiare no, ma bere posso evitare. Sì, no. Non bevo, ecco, ripeto, io se devo guidare non bevo niente. Posso bere, certe volte bevo qualche Coca-Cola, quello senza zucchero pure, ma ogni tanto lo capito. Però salotto un bicchiere di vino me lo bevi a sua casa, capito? Sì, se domani va bene, poi pure io, non è per poco giovani, poco e niente. Se noi ce lo beviamo salotto un bicchiere di vino, procenando, e a voi ci buchemmo, oggi andiamo così, poi domani si vedrà. Sai com'è, l'importanza che la roba ci sia, che uno è tranquillo, per cui, e poi specialmente con i sette fuochi, gatto, adesso la sola, mangiate, berrezze, gatto, e capire rompere i catti, sei di casa, gatto, non siete un garotti, si cacchi volta, qualche volta uno si beve un bicchiere di vino, no? Può capitare, no, uno, una volta, gatto, poi siete in casa, non devi guidare, e per cui lo puoi anche bere un bicchiere per dire, no? Ecco, magari c'è fuori che dopo deve ritornare, no, quello no, bisogna stare attenti, perché se ti manca la, se ti frega la patente sul capo di tuo, perché sei fregato, ecco, per un bel po' sei fregato, ecco. Sì, io ho amici che stanno recuperando proprio la patente, lo stanno bevendo. Così che è meglio evitare, no? Che ti pare che poi si arriva la cazzo, devo guidare, poi si... No, assolutamente. Già che non bevo, per cui sono tranquillo io, capito? Poi se dovessi bere, e magari c'è anche, sono i miei figli che hanno la patente, per cui mi porta loro, perché c'è un bel di volte che quando mi invitano, mi porta a qualche posto, guidano loro, per cui se me lo bevo un bicchiere, sono tranquillo, capito? Sì, se bevi con lui. Cosa? Ce l'ha la patente la tua ragazza? Sì, certo, anche la sua. Sì, vabbè, sia che si sia, l'importanza è che ce l'abbia la patente. Vabbè, eventualmente, vedi, è già un qualcosa, magari se dovessi bere qualche bicchiere, guida lei e sei tranquillo. Non bevi magari, però se dovessi bere, c'hai già l'autista, sei tranquillo. Sale. Sai la percentuale, perciò anche lì se li beve fuggita. Ehi, aia, oh lui, e va vicino a me lì a cucina, che devo controllare quella questione, dai. Se ci sei rientro dopo, ok? Se no ti faccio gli auguri e eventualmente ci sentiamo domani. Ok, buon proseguimento. Auguroni ancora in famiglia, ci sentiamo, ok? Sì, Giovanni, mi ha anticipato, anche devo uscire, dai. Ma plus, auguroni anche a voi in casa e a domani se Dio vuole. Ciao Giovanni. Ciao. Ma che è la parte di Maria. Ciao Giovanni, grazie. Mi raccomando, mangia poco, Ok, grazie Maria, ricambia tutto anche in famiglia, dai, ci sentiamo. Buon proseguimento, auguroni ancora. Chi è? Il più forte? Aspetta. Allora devo stare molto attento, comunque buonasera, e controllo, io non ti posso controllare perché non sono un medico, io ti mando la casa mucca a controllarti. Buonasera, ma che ben sentito, dai, scherzo, ma va bene, allora va bene, perlomeno, io adesso ti sento bene, e quanto ne hai adesso stasera? 1,34, 1,34, che c'è? Ma allora ce l'hai il stazionario, Bacchi? Siamo a 35, quando sei già a superiore, ma 1,34 va bene, grazie. Ma, Bacchi, no, ma stazionario sono pochi, non è che ce ne siano molti. Va benissimo, ovviamente. Poi ti raccogli subito se dovessi aumentare il stazionario e scalda la PL, capito? Basta toccare ogni tanto il PL e non succede niente, perché il stazionario non è che siano molto, capito? Non è nemmeno a 2, tipo 1,5 può essere, dai. 1,5 e non di più. Dai, chiama dopo, dai. Per un altro po' già rimango, dai. Bacchi, scusa, ero in bagno. Dimmi. Sì, ci va benissimo, è a voglia. Sei a fondo scala qua, va bene, la radio è pulita, tranquilla, capito? Per cui va bene. Beh, va bene, come radio non c'è male. Ok, Bacchi, devo chiudere che devo uscire. Già ci sentiamo, auguroni famiglia, Bacchi. buon Natale, vai. Già ci sentiamo, ok Bachi. Ok, grazie altrettanto, ciao Bachi, ciao. Chi è? Non ti ho capito chi sei, ma date il tempo per parlare, non che ci soprammobiliamo, Chi sei, avanti.